Grazie a sé, noi padre delle bonde, ho cercato mio figlio e t'ho creduto morto. Tu pianto, padre, e bacio questa mano sante. Oh, figlio ritrovato. Vecchio re senza regno e fuggente, una voce sentì che mi diceva: vieni con me, sarò tua guida. Era lì. Angoscia e diviso Thank you. che fai? Non senti il suo profumo nell'aria dell'anima? Perdi. Divina bellezza, meraviglia, io soffro, padre, soffro. Amano, stringiti a me, più parlagli tu. Salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano. Signore, andiamo, la vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre, la vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro, mi salvezza la vita. Thank you. senza lumicino. Con la nera un camino son più chiare delle nimidi volendo. Ferro, bronzo, muro, roccia, mastina, tua capoccia, son venturi delle nimidi volendo. Dunque va saluta tutti, varca i monti dalle flutti, dalla larga dagli nimidi volendo. Oh! Morrer.

celesti libri sacri. Ne potrei tornare a Sion, ne potrei tornare laggiù, ne potrei tornare a più, a godermi il lago blu. La pace ridà, la pace ridà. vergogna, e il palazzo già formicola, nel ministro di solar, udì il gran tamburo del tempio verde, già scritto le infinite, già vate di venire. Udite trombe, altro che pace, ma inizia la cerimonia. Andiamo a doverci nel desimo sprizio. Thank you. Thank you.

Thank you. Stare nel vita nascono nome? No. Quel nome? Bravo servo, vede per loro obbedire non può. Perché gridi? Lasciatela! vecchio è morta. Oh! E lì, correndo, le spieremo tutti. L'anima offesa, l'anima offesa. Si vendicherò. Oh, Got it! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.